Infatti quando li muovi sono anche duri, li senti belli, che chiude completamente il contatto. O se no ti devi arrangiare con questi giocattolini, ma sempre con il rischio. L'altro giorno, vi ricordate, mi ascoltavate in altri canali, perché non chiudeva bene, riuscivo a passare, e con il rischio di sfasciare la radio. Allora, io tutti questi imbuli che non avevo fatto, tanto, io avrei messo un'antenna fissa su l'HF, poi avrei usato un'antenna col commutatore a due uscite, avrei piazzato due radio, ok? E poi mi avrei messo l'antenna diretta al ricevitore, per le altre frequenze e cose del genere. Questo è tutto quello che l'avrei fatto io. Stavi innescando comunque, Massimiliano? Sì, ho abbassato, mi sono accorto, sì. Ehi, ok, vai, restiamo un discorso generale adesso. Chi è rientrato? Io sono certo chi è rientrato, chi c'è? C'era Eugenio, c'è ancora Eugenio. Ho sentito l'attacco, c'è Massimiliano, Giulio, io. Poi chi c'è? Gavino, c'è ancora. Scusa, vai Cla. Gavi ci sei. Vai Cla. Ehi, mi sono rientrato adesso. Sono sempre in ascolto, sempre in ascolto. Ma volevo capire una cosa, ma sì, l'antenna dove l'hai messa tu? Vicino al fico. Che cosa? Dove l'hai messa l'antenna? Vicino all'albero delle noci, volevo dire. No, l'ho messa l'ho messa lì per provare. Sul tetto adesso l'ho messa. Non te l'ho mandata le foto? No, non le ho mandate, no. Cosa vuol dire no? Non le hai guardate, ma te le ho mandate le foto, una zizzena. Adesso le guardo, dai, le guardo. Un saluto a tutti comunque, di nuovo. Sto sempre in ascolto, dai, sempre facendo. Ehi, va bene. Vai, riprendi Giulio. Ma una è barredussa, Massimiliano, l'impressione mia. Cos'è? Una è storta, ho l'impressione all'effettuti. No, c'era un po' di vento. Cacchio, un po' di vento, cioè. È tutta bigiada, quella la Mantova, dico. Bigiada? No. Mi già l'abbiamo messa con Gavino, anzi, forse un effettuti, là. È bella che è a piombo. Guardati la foto che mi hai mandato, che c'è il dito Vittoria. Sembra coricata l'antenna, è l'altra dritta. No, ma è un effetto ottico, tranquillo. Ehi, sembra coricata. Oh, dai, riprendo io, me devo allontanare un attimo, che devo andare a fare una commissione. Ci sentiamo dopo. Comunque, Giulio, questo è il sistema, perlomeno io ho la T230, c'è l'ingresso della Mantova, poi le... sull'input le tre uscite, io commuto tre radio diverse, capito? Ma sempre con la stessa antenna. Nel caso vostro che avrete due antenne, se avessi avuto io due antenne per la 27 ne avrei messo una fissa sul 440 e l'altra sull'ingresso della T230 avrei commutato magari due HF più magari un baracchino che mi serve per fare due chiacchiere, ecco. Più o meno i discorsi sono sempre questi. O viceversa, tre antenne con sempre un'unica radio, però, perché sempre una ne puoi usare con l'uscita della commutazione, a meno che non fai tutti i passaggi che c'è Roberto, entra lì, esce lì, entra qua, entra là, a me queste cose non mi piace, troppa dispersione. Va bene, per il momento vi saluto, se non ci sentiamo dopo, buon pranzo a tutti e se coincide a stasera. Avanti Giulio. Sì, quello sì, qua, indubbiamente va bene, come stai dicendo tu, va benissimo. Però io volevo utilizzare l'antenna del ricevitore, cioè l'antenna dei 2 metri, in poche parole, per il ricevitore volevo utilizzare, ecco, cosa che devo sempre staccare l'antenna, o perlomeno l'antenna dei 2 metri me la metto diretta al ricevitore senza usare il commutatore. Quello sì, ho capito, uno diretto al K, e poi posso avere due possibilità di due baracchini, sempre con la solita antenna, perché avendo due antenne è ovvio, però quella per il ricevitore dovrò mettere l'antenna diretta al ricevitore, e dunque sono tre antenne in tutto, ma va bene lo stesso, dai, non è un problema, va benissimo così. Bene, vai Tonino. Aspetti una cosa, un'osservazione, non so se diciamo. Vai! Allora, una cosa che non abbiamo detto, attenzione è che lo ZGTM1000 è sino a 30 MHz, se tu lo devi usare su 2 metri non serve a niente, non puoi commutare niente. Ma infatti. No, quello non lo potrei mai fare, perché è impossibile, assolutamente, quello lo so. Ma intanto il ricevitore devo solo ascoltare, non è che lo devo usare, dunque non ci sarebbe nessun rischio o robe. Io in caso fosse stato possibile fare anche quello, ma non c'è nessun rischio, perché intanto il ricevitore riceve e basta, non è che devi trasmetterlo, per cui non è un problema. Ma scusa un attimino, se tu allora devi disinserire l'accordatore, devi togliere il tasto on del TM1000, perché se tu c'hai accordata l'antenna sulla 27 e poi commuti l'antenna 2, diciamo quella per i 2 metri, devi disinserire l'accordatore, se no va in disaccordo. Non va bene, ricevi basso, non va bene, ci vuole un commutatore coassiale, lasci da quelli lì che TM1000, che sono strumenti per i buffi, cosa è davvero un commutatore coassiale che faccia da 1 a 500 mega, allora il discorso è diverso, il TM1000 non serve a niente per commutare anche in ricezione la UHF, Giulio. È registrato, sì, quello sì, d'accordo, tutto quello che vogliamo, è chiaro che magari perdi qualcosa, anzi senza qualcosa, per cui non è quello il problema, vabbè, comunque deciso così, compriamo quello a due uscite, come quello che mi ha mandato Massimiliano, perlomeno io compro quello, poi voi vedete un po' se va bene, se vi va bene, se no si chiederà quello a due, quello a tre, a quattro, non volete, dunque, ma con un unico ordine io penso che si possa fare, d'accordo, mettiamoci d'accordo e lo facciamo direttamente a questo ordine. Avanti Robertino, cioè non Robertino, sempre ti scambio io, Riccardino, sempre ti chiamo Robertino, avanti Riccardino. Ok, grazie Giulio, sono appena tornato da Walter. Ciao Ricca, Bessetto. Giulio, se vuoi una cosa, se c'è tempo ti posso aiutare io comunque. E cioè? Se ti vuoi divertire, allora io ho dei commutatori militari, di apparecchi militari, che dovrebbero essere a 3 o a 4 uscite. Se ti appetti te lo metti dentro la scatola e te lo fai tu il commutatore, come si faceva una volta. E sono super potenti, nel senso i contatti sono roba di una volta, assolutamente resistenti, li puoi dare anche tensione alta e va benissimo. Ma è fattibile, è fattibilissimo da me ad esempio. Sono un po' ingombranti, tieni presente, perché saranno, cosa ti posso dire, sui 8-10 cm di lunghezza, e un cilindro largo sui 4 cm, dai. E c'ha diverse posizioni di commutazione. Io questo lo sto utilizzando, siccome sto facendo l'impianto nel nuovo campo che sto facendo, per commutare tutte le linee 12 volt, 220, inverter e pannelli solari, forse a 4 uscite, lo sai, e separo completamente gli impianti. E c'è gente mia, Antonio Pompugno li faceva anche lui queste cose qua, è abbastanza semplice, devi trovare soltanto le posizioni, te le devi segnare e vai alla grande. Ho capito, cos'è un qualcosa che posso inserire dentro una scatola di legno ad esempio, o una scatola di plastica comprata, non so, un qualcosa del genere? Ma diciamo, se lo metti in una scatola metallica secondo me è meglio, in modo che puoi avvitarlo, stringerlo bene in legno, sinceramente sì, tu sei falegname e puoi fare tutto quello che vuoi, però se c'è una bella scatoletta in alluminio, se capiti già te lo faccio vedere, tanto di venire ti devo chiedere quelle informazioni a riguardo di quel lavoro devo fare, così mi dai indicazione e te li faccio vedere, e secondo me con quelli va più che bene, è un lavoro che tanta gente, vecchi radioamatori utilizzavano, quelli roba militare, dei commutatori militari, a diverse uscite c'hanno lo zero e poi c'hanno la posizione destra da una parte e sinistra dall'altra, cioè come un classico commutatore, però stiamo utilizzando delle cose super professionali a norme militari, per cui tengono bene anche lo scatto, proprio lo senti che fa tac, proprio tipo l'MT3000, cioè senti il movimento del coso, del particolare. Ok, facciamo rientrare a Riccardino e poi se c'è qualche osservazione, Giulio, dai a te il mic. Ok, grazie. Comunque sì, stavo scatto, non so chi sia, perché mi ho sentito molto mentre ritornavo, avevo il baracchino acceso e non ho capito chi è entrato, chi è uscito, e quindi per non sbagliarsi ho tolto la ruota. Cambio per Giulio. Ok, ciao Riccardino. Sì, no, ci siamo sempre tutti, dai, c'era Tonino, c'era Eugenio Enrique, sì, perché era appena uscito dal lavoro, dunque probabilmente un po' stanco. Poi Massimiliano, io, Claudio e Roberto, siamo questa cerchia qua stamattina, per cui va bene così, dai. Vediamo un po', Massimiliano? Sì, sì, c'è anche Gavino, c'è anche Gavino. Quindi Riccardi, hai visto dove abito anche io? Hai visto le mie antenne? Sì, le Mantova sono. Una Mantova e una Sirio. Ah, le hai già viste tutte e due montate sul tetto? Sì, le ho viste tornando, è prima. Ok, va. Quindi più o meno sai la zona, dai. Va bene, ok. Stai usando il microfono da tavolo? Negativo. Va bene. Va bene, ok, vai Gavino, riprendi. Ehi, un saluto anche a Riccardino che è entrato da poco e niente, dai, avanti con la ruota. Massimiliano, dimmi. Ma io non ho capito esattamente dove sei tu. Io so dove c'è il coso Walter. Tu sei prima o dopo di Walter? Prima di Walter. Ma sempre solo quella strada lì? Eia. Tu sei vicino ai campi di calcetto o prima dei campi di calcetto? Allora, Walter abita lì nei campi di calcetto. Sì, ma poi ci sono gli altri campi di calcetto, quelli di coso, della Gazzosa. No, come si chiama? Di Atto, sui primi, sì. Eia, ma io sono prima di Walter. 500 metri prima di Walter, nella stessa strada. E si vedono le antenne tue nella strada? Sì, sì, si vedono. Mi ha visto Riccardo. Ok. Quindi Walter quando attacca ti va di male a te. Mi va di male, quattro ieri. E poco fa quando è entrato Fabrizio con quella radio stavo provando, era 9.60 a fondo scala. Chissà cosa succedeva la volta che ha sollevato con 2K, che qua mi arrivava a 9.35. Figurati a casa tua. Dimmi Riccardo. Non metteva in testa quando vince il computer. Ah, le hai viste tutte le radio ghiacciate? Sì, ma ne ho un bel doppione, ancora hai scatolato maglie aperte. E te l'ho detto che io penso che, non dico in Sardegna, in Italia ce ne siano ben poche di cose con tante radio come quello, un museo è quella lì, e, diciamo è una cosa spaventosa. Poi non so se hai visto le antenne che stava montando, le hai viste? Sì, le ho viste, stava montando una cubita adesso. C'era quella grande che sarà boom, 20 metri di antenna, il boom di 20 metri è una cosa spaventosa. No, ma ho visto che stavano abbassando la cubita per sono contento, dai, hai conosciuto anche la cosa, Fabrizio. Sì, ho conosciuto Fabrizio, no, però non ho conosciuto Walter, Walter non c'era. Ah, non c'era Walter? No, non c'era, però ho visto che ha un sacco di roba, è appassionato di palazzini, macchine e anche altre robe. Già lo so, Walter è esagerato, pure troppe. Tu l'avevi vista la stazione di Como? Vabbè, penso di sì, Massimiliano Puglia, si verrà visita. Cosa? No, ho detto a Massimiliano, già l'avrà vista anche lui, visto che sono vicini, basta che si affaccia. Massimiliano. E oggi finalmente il QRM è basso, a 4, mai è successo, cazzo, è la prima volta. Ok, riprendo io, dai, evidentemente Massimiliano si è allontanato dalla radio, dai, va bene. Sì, e beh certo, Walter è un collezionista per cui, ma mi sa che non è solo collezionista di radio a questo punto, Robè. Io lo considero anche collezionista di antenne, mi sei considerato tutte le antenne che ha installate con un tanto di tralicci, al plurale, non uno, al maschile, no, al plurale, tralicci, perché ne ha più di uno e dunque due, per cui sappiamo benissimo cosa lui è un collezionista, non è solamente un radioamatore, è un collezionista alla grande, che ne ha preso un po' quindi no, beato lui che ha potuto spendere tutti quei soldi in baracchini e in radio. Bene, bene. Claudio ci sei ancora o si era già allontanato mi sembra Claudio, vero Robè? No, non ho capito se si è allontanato in Corrix o che cosa, perché talmente sono entrato, mi sono allontanato io, sono ritornato, ho perso la cognizione del tempo delle persone che ci sono. adesso per dire c'eri tu e mi hai dimenticato che c'eri anche tu, mi ci sono già, poi stiamo parlando troppe cose e poi alla fine ti distrai e non riesci a capire che ti dimentichi chi c'è. Comunque riepilogamo, c'è Riccardino, Giulio, Massimiliano se c'è ancora, io e Gavino, e c'era anche Claudio che non so se c'è ancora. Facciamo rientrare, se no riprendi tu Gavino. Vai Gavino. E niente, cosa volevo dire? Si sta avvicinando una bella arietta qui, tra poco sicuramente piove. Sì, è prevista, ma sei operativo, sta lavorando, ma sei Gavi? Sì, sì, certo, sì. Stasera no però, stasera mi riposo un po'. Il sabato di solito lavoro sempre, sabato mattina. Tu normalmente però il sabato non aprivi così, ma sei Gavi? Aperto, sempre aperto, anche di sera lavoravo, la domenica riposo, capito? Ah, ero convinto che il sabato tu non lavorassi, vabbè forse è capitato male qualche volta che ti sei allontanato, boh. Ok, vai Giulio che farai girare per Riccardo. Ok, Gavi, sì, evidentemente ha lavoro da fare, hai fatto bene, se c'è da fare, non si guarda l'orario, quando uno lavora in proprio il discorso è sempre quello, no? E più ne fai e più ne hai. No, Gavi, volevo sapere, a che altezza ce l'hai di Via Napoli, il laboratorio, a che altezza sei? In alto, in basso, al centro, com'è? Altezza di Via Torres, Giulio. Ah, in Via Torres, non è Via Napoli, è in Via Torres. KK, angolo con via, Via Torres, angolo Via Napoli, dai. Dove c'è quello dei vini, dai, non c'è da sbagliare. Bene, dai. Va benissimo. E allora, Riccardo, dimmi, cosa stai combinando? Però mi devi far sentire, perché ieri non ci sei riuscito, mi devi far sentire una di quelle tue radio in FM, perché ieri, non lo so, forse non ci sei riuscito a farla funzionare. Tu mi hai detto che ce le hai, le radio in FM, ma non ci sei riuscito a farla sentire. Vai, Riccardo. Sì, ma no, però posso utilizzare anche il tornado, perché ho il tornado che funziona benissimo e sono stato oggi e praticamente quello anche i canali alfa più migliore, quindi posso, con quello posso andare anche nei canali alfa. Giulio, c'hai una radio spettacolare, penso che... Allora, tu mi stai condizionando, tu mi stai condizionando, a forza di curare le modulazioni, anch'io sto facendo progressi, no? La Siliano è l'occhio, ti vuole prendere MC60, oppure te lo prendo io, Giulio. No, io ce l'ho il 60, è nuovo pure, io sto usando il 60, no, io lo voglio prendere assolutamente, però la radio è superiore con l'MB+4 per la sua timbrica e micidiale, è proprio bella, lo puoi conservare il 60 e lascia il +4 perché è favolosa. Poi mi dirai, Giulio, se hai lasciato la batteria o hai preso corrente dalla radio. No, niente corrente della radio, ho lasciato la sua batteria, che poi tra l'altro Massimiliano è una batteria che c'ho un sacco di tempo, io l'ho montata su questo microfono e non è carica al massimo, diciamo, dai. Io penso, se mi ricordo bene, avevo misurato 7 volt o una cosa del genere, mentre invece dovrebbero essere 9, perché quando è carica è 9, per cui è anche un pochino scarica la batteria. Anzi, ti devo dire anche di più, nell'attacco lì, tipo ganci automatici, chiamiamoli così, era anche leggermente ossidata, perché l'avevo lasciata attaccata questa batteria alla radio sveglia che ho sul comò qui, no? E infatti l'ho utilizzata proprio per metterla nel microfono. Adesso la radio sveglia non c'è bisogno della batteria, l'unica cosa che non ha la radio sveglia è che non mi mantiene la memoria in caso di mancanza di luce, ma niente di più, quello non mi interessa. Ed era un pochino ossidata, infatti l'ho dovuta raschiare per avere un buon contatto col microfono. Tutto lì, Massimiliano. Sì, vabbè, ma quello diciamo che potresti tranquillamente comprarlo nuovo e metterlo nuovo, oppure prendere completamente, diciamo, l'alimentazione dalla radio, Vabbè, allora io non le voglio prendere al 60, però se le dovessi prendere al 60 io sono più vicino a casa sua, capito Robè? Ah così, sono buttato al cassonetto, tu fai prima di me. No, il problema è che i cassonetti non ce ne fanno la raccolta differenziata, ma conosco quasi tutti, capito? Ah così, comunque si sente che il 60 è il tuo, infatti te lo volevo dire da prima. Tac, l'unica cosa che manca a Giulio, se vuoi essere pignolo, è il socco del 60, che è inconfondibile, quello tank. Però la radio, ti ripeto, come ha detto Massimiliano, Massimiliano ti conoscerà dal vivo come ti conosco io, e la tua voce naturale, perfetta, esente, mi ha adesso attaccata nel dato rispetto, proprio per sentire tutto, i livelli eccetera, è naturale al 100%, come natura crea, mi pare diceva Cirio una volta così. Ok, Roberto, va bene, dai, comunque, è nuovo, il mio 60 è nuovissimo, proprio non c'è un graffio, è perfetto veramente, è non solo il microfono, anche la radio è nuova, nuovissima, pensa che io la copro sempre, quando ci metto un microfono sopra non lo metto mai senza metterci un panno per non graffiarla praticamente, ma questi sono altri dettagli che non hanno la minima importanza. Va bene, facciamo girare per Riccardino, avanti Riccardino. Ok, comunque, Robè, tu ho detto a metterti le mani in testa, alzami il cuscino, trovavi altre due radio, girati ne trovavi altre due se non avevi visto, è una presenza. Ma poi li hai visti gli apparati, quelli seri, diciamo, quelli amatoriali, diciamo, per fare attività amatoriale, li hai visti cosa c'è? C'è da aprire un museo, già li ho visto gli aerei su quelli, non mi ricordo che vicino, quindi una cosa del genere, che mi avevano detto che quello costa quanto una macchina ed è quello più professionale in tutti. Sì, l'effetti 9000, ma non ne ha uno solo, ne ha due o tre allo stesso apparecchio, perché c'ha tre postazioni diverse, quella diciamo la postazione più importante, ma se vai anche nell'altra postazione degli punti, anche di lì, non si scherza, dai, è un grande appassionato, collezionista come ha detto Giulio, io gli auguro a volte che capisca a 250 anni, però quando eventualmente non ci sarà più, chissà dove va a finire tutta questa roba, conviene organizzare un museo perché ci sono delle cose spettacolari. Problema di noi. Già lo so, infatti uno poi ci pensa, dice quando non ci saremo più cosa ne facciamo di tutta questa roba? Se trovi, se c'è dei figli o dei parenti appassionati, continuano l'attività, nel senso le tengono in ordine, però molte famiglie, io conosco delle famiglie di radioamatori, è morto il padre, la moglie, piglia tutta la roba, la metà parte è buttata, qualche d'un altro se la svende, eccetera, e rovini tutto, dai. Ok, io spero per il bene di coso, di volte che campi 250 anni, anche di più, dai, se c'è la forza di resistere, e la roba vada in mano, in buone mani. Vabbè, ti ripeto, io sono vicino, quindi vado con la carriola. Ma anche me non basta una carriola, lì devi prendere un coso, un cassone di camion e caricare. Comunque io conosco un'altra persona, che forse ne ha un pochino più di lui, non parliamo di radio amatoriali, parliamo solo ed esclusivamente di CB, e ne ha, mi sembra, oltre i 2000. Ma qua sta? No, assolutamente no. Fuori, siciliano, è siciliano, e allora per farti capire, questi Colt MKI 8000 GX che costano intorno ai 1000 euro l'uno, 1200 euro l'uno, di quelli ne ha roba di forse 40 o 50. Figurati, no, ma qua in Sardegna io penso ce ne siano ben pochi a livello di vate, così ho visto che poi mi ha detto Claudio, che è il fratello di Sino Vittorio di Fusaro, Giovanni, la collezione di microfoni di quello lì, quello ne avrà 300-400 microfoni, io ho visto a Iti, li aveva portati per quando c'era una festa patronale, mi sono spaventato cosa c'era di microfoni. Ciao, dai, che vado a preparare il pranzo, sono arrivato adesso. Vabbè, Giovanni Fusaro, quando abbiamo fatto la manifestazione, ma non lì, quella era piccola, quando l'abbiamo fatta alla sala consigliare del, insomma ricordo, il paese, comunque un paesino sempre in provincia di Sassari, non c'era manco un posto. Ci ho detto che c'ha tutte le linee militari, da paura. Maracchini è un gioco a venne, ma le linee militari non è facile. Comunque, come ha detto Massimiliano, anche io ho sentito parlare di questo siciliano che mi ha un bel, un bel, un bel, un bel. parecchie. Dai, riprendete, io vi saluto, sono rientrato per salutare, vi auguro che buon pranzo a tutti, ci sentiamo stasera se coincide. C'è un tempo fuori allucinante, caldo, ma si sta chiudendo il cielo e secondo me stasera ne scende l'aria. Ma è macioca allora, dai. 5 euro lavata l'ubaccone mio, ho visto oggi. No, io non ci vado a comprarli, non ancora, me li da Massimiliano, adesso quando piove lui li prepara, li fa, poi se li mangia da solo perché non li ha dati a me e lo fa da Cusci. Te li ha già sbucciati pure, te li hai solo mangiati. Maledizione. Vai, vai a mangiare, vai. E ci sentiamo dopo pranzo, vai. Adesso se piove forse vado domani mattina presto. Domani mattina mi faccio una passeggiata in campagna e vado e me li faccio un po'. Sin da Giugana, dipende a quella mi curi questa notte. KK, dai, ok, ciao Claudia, allora stai chiudendo, buon pranzo, buon tutto, ci sentiamo, grazie di tutto, grazie dei controlli e alle prossime, ciao, avanti il Bipis. Break, buongiorno. Sì, a cosa l'amico Bonani, va bene Gianni. Ciao Daniele. Buongiorno, buongiorno, saluto a tutti. Daniele. Ma, Daniele, ti ho mandato un messaggio l'altro giorno che ero da tanto senza sentirlo. E gli ho mandato un messaggio a vedere come stava. Ciao coronavirus. Buongiorno, buongiorno. Incasinato era il giorno, Massimiliano. Già non mi sono dimenticato di voi, anche c'ho poco tempo. Vedete, buonanima, ma tu sei risorto allora, Daniele, adesso ho mollato un po', ripeto, non c'ho più tempo. Siamo alquanto incasinati in questo periodo. Ma di più del normale ce ne lavoro. Lasciamo perdere. C'è più traffico, dai, comunque ben sentito. C'è anche, ciao Claudio, comunque, buon tutto, buona carica. C'è Giulio e c'è anche Riccardino. Dai, facciamoti riprendere Riccardino, se lo ascolti. Avanti Riccardo per Daniele. Ciao Daniele, ma io però non l'ho mai sentito. Daniele forse lo conosce tuo padre. Togli il forse. Che lui è amante del fuoristrada estremo, se devi arrampicarti su qualche montagna lui ci va col fuoristrada. Boh, forse lo conosco, vabbè. Comunque, ciao, è benissimo. No, io non ti avevo mai sentito, l'avete sono da poco. Buongiorno, buongiorno. No, non ci siamo mai sentiti, questa era la prima volta. Paga B, Daniele. Cosa, Robè? Paga B, come si dice. Eia, sono chiuso in bar. C'è Giulio anche, vai Giulio per Daniele. Ok, ciao Daniele, sempre da quelle perre abiti? O in macchina sì in questo momento? No, sempre qua, a proposito, ciao Claudio, non ho fatto tanto ascolto. Sì, sempre qua sono Giulio, sempre qua, dopo mia, sempre lì. Ah, pensavo che avevi la casa con le ruote, che la spostavi ogni tanto. Dai, era un giorno, se sta sentiti adesso, un pochino assente sei stato, Avanti, riprendi. Sì, giù. Quando è? La prima dell'estate, le ultime modulazioni che abbiamo fatto, e poi K.O. Infatti, vabbè, tu stai lavorando, tu hai ragione, quello più importante sicuramente del baracchino, ma comunque ogni tanto una scappatina anche in aria lo potresti fare, almeno per salutarci, no? Che ci fa piacere. Va bene, avanti Massimiliano. Non c'è Massimiliano, mi prendo. Conosci anche qua un'altra frequenza, l'altro giorno era venuto il discorso Franco Binario, che dice che vi conoscete qualche volta, forse se siete andati insieme da qualche parte, Dani. E chi è questo? Non lo so il cognome, comunque lavora in ferrovia, noi lo chiamiamo Binario, c'ha credo un Mitsubishi lui di fuoristrada. Ah, ho capito chi è, sì. Abbiamo fatto qualche QSO tempo fa. Sì, adesso non ce l'avevo presente, mi ha detto la macchina e mi è venuta in mente. E poi se vuoi fare un fuoristrada un po' tosto te ne vai col padre di Riccardino che c'ha due bestie. Sì, anche quella di Daniele, non scherza. Ma tu l'hai vista quella del padre? No, Daniele vabbè già. Però quella che c'ha il padre di Riccardo, Sergio, ce n'è una, quella super sopraelevata, dai. Tipo quella di Daniele, però questa c'ha un motore americano, magari sia simile ai cilindrati. Ma quella bianca? 24 valvole. Quella bianca, Ricca? No, quella rossa, Bordeaux, vabbè. Ma quella lì dove passa Daniele non ci passa quella, eh. Dici? Io dico di sì, proprio. Ma quella Bordeaux tu l'hai vista? Quella rialzata, che è una cosa spaventosa. Daniele, la tua è con telaio rigido o scocca portante? La mia è a traliccio, dai. E allora già ci passo tu, dai. No, quella del padre di Riccardo, quello il Bordone a due, fuori strada, un altro benzina e l'altro quello diciamo diesel. Quello diesel è la terra, boh, è spaventoso. Il cofano non riesce a aprirlo con le mani, se non sollevarlo sul cofano anteriore perché è troppo alto. È una bestia. Mario, tu mi dirai, è ingombrante, tu col tuo riesci a districarti meglio perché è un po' più piccolo, però anche lui già si va con quella macchina. C'ha le ridotte, tu le ridotte ce le hai, Daniele? Io c'ho tutto, blocco centrale più i blocchi anteriori e posteriori. Cos'era? Che modello è tu? Che ne mi subisce è tu? Il mio è il Defender, robè. Ah, catagonfito, non ce l'hai più il coso, mi subisce non ce l'hai più. Tu sei rimasto indietro. Sì, no, adesso già mi ricordo, dai, adesso lo so che prende fesserie, no, io stavo considerando il vecchio, Daniele. E adesso ho perso la cognizione. Ok. Cosa volevo dire? Basta altro. Non ce n'è, sempre giù via Rockefeller, sì, Daniele. Sempre qua, da qui non mi schiodo, ho cambiato solamente il piano, prima dal secondo piano e sono al piano terra. Robè, dimmi, ma se ne in macchina di coso, di Daniele, ci vuole la scaletta, la usare, sì. Oh, io non so se c'era molto senza avere Daniele, ma quella macchina bianca non l'hai vista, cazzo è un metro la sono levata a terra. Per aprire lo sportello, ma giù butto la scaletta da due gradini. Sì, no, è alto, in proporzione è più alto quello di Daniele rispetto a quello del padre di Riccardo, però c'è da dire una cosa, che quello del padre di Riccardo in versione base è già alto di per sé, poi l'hanno sollevata ancora di più e non so se la giocheranno tutti e due, secondo me, però è enorme come fuoristrada, c'è un'altra cosa. Allora, stiamo parlando di due generi di cose diverse, uno per fare cose, diciamo, quello è per trainare quello che c'ha coso, infatti è enorme, c'ha un motore, quanto è di cilindrata? 6.000, Riccardi, con lo diesel. E uno è 6.000 autocilindri di benzina e l'altro è OMC, quello 6.000 benzina, e l'altro quello che ha due antenne, non so se l'avete visto dietro, due manovra turbo, quello enorme, e poi c'è l'altro un po' più piccolo, quello bordo che è sollevato, però quello c'ha motore diesel 6 cilindri, lo stesso, però è un camion, stiamo parlando di camioncini, non sono neanche per i fuoristrada, sono proprio camioncini. Ma appunto, dove si arrampica quella che c'ha Daniele, quella lì non ce la fa perché è troppo ingombrante come macchina, capito? Va bene, dai ragazzi, io vi lascio, vi auguro buon pranzo a tutti, se in caso ci sentiamo stasera, ok? Riprende Giulio, aspetto il finalino e poi chiudo, va. Buon pranzo a tutti, ciao. Ok, ciao Massimiliano, alle prossime. Anch'io ci vuole, non dico una scala, ma una scalettina che ci vuole per salire nella macchina mia, la Ford EcoSport. Anche quella non è un SUV veramente, ma è, diciamo che è un mezzo SUV, abbastanza mastodontica, grande, alta, tant'è vero non arrivo a pulire la cappotta quando è sporca, quando vado a passare la pelle per asciugarla, quando la lavo non ci arrivo, solamente le parti laterali riesco a fare, perché al centro non ci arrivo, mi devo mettere veramente la scala per asciugare la cappotta, ma comunque va bene così. Vabbè, poi c'è l'altra piccolina, quella è un giocattolo, è la C3, ormai è nuovissima, però ce l'ho già 10 anni, ma ha solamente 40.000 km, tanto per darvi un'idea. Va bene, dai, avanti Robè, per salutare a Massimiliano. E ciao Massimiliano, buon tutto, buona carica anche io, adesso tra qualche minuto sono in attesa, vado. Ok, vai Riccardo. Ok, sto chiedendo a Babbo quanto è in tratta. Ciao Massimiliano, ciao, ci sentiamo stasera. Comunque ciao Massimiliano, ci siamo salutati, scusa. Ok, ciao a tutti, ragazzi, ci sentiamo stasera, ci vediamo, ciao. Ciao Massimiliano, se coincide ci ascoltiamo più tardi, dai. Ciao Danilo, un abbraccio, ciao a tutti. Ciao. Comunque Daniele, vicino a te c'è un altro di CB che si chiama Mario Mandarino. È vicino a quanto, Robè? Vabbè, la via è la stessa, tu sei giù, lui è vicino ai carabinieri. 6.000 di cilindrata. 6.000, quindi tre volte il motore della macchina mia. E il tuo quanto è di cilindrata? 2003, quanto è Daniele? Il mio è 2.5, 130 cavalli. 5 cilindri è il tuo? Il 4. 4 cilindri è. No, quello è proprio per fare un fuoristrada crudo, è il tuo, dai. Quando devi fasciare qualcosa, che gli altri si fermano, tu cammini. No, sono un po', diciamo, non è macchina da usare tutti i giorni in città che ti sfasci la schiena, però per far fuoristrada duro uno dei migliori sicuramente. Già ti diverti, Robè. Già ti diverti con quel tipo di macchina, dai. Confronto al vabbè, delle 200 lo stesso, era un altro pianeta, non faceva più di tanto, quello era lungo lo stesso, è un po' largo, ma per quello che mi serviva andava bene. E vabbè, cioè, era la doppia cabina il tuo, le 200? Sì, la mia era il 5 pozzi con 4 porte. C'avevi quello di vantaggio, era un po' più comodo da guidare, dai, però in fuoristrada questo li fa 10-0. Sì, ripeto, sono due pianeti diversi. Anche se il Mitsubishi l'hanno usato per fare diverse competizioni, lo sai, l'anteriore non c'ha ponte rigido ma è a bracci oscillanti lo stesso. E anche quelli già vanno bene, Mitsubishi già sono belli. Il nuovo bello, quello che l'hanno fatto uguale alla Fiat, l'hai visto quello che ha suonato, doppia gabbina, che bello. Sì, anche quello è molto bello. È il gemello delle 200, il telaio e il resto è sempre lui, soltanto che ha marchiato Fiat. Sì, l'hanno messo i motori Fiat, diciamo, però la carcassa, diciamo, la scocca è coso. Ma il Mitsubishi non è a coso, a telaio, o sì, dimmi qualcosa. Allora, i modelli vecchi erano sempre a telaio, separato, cabina e telaio, erano divisi. I modelli successivi, i modelli nuovi del Mitsubishi, poi hanno fatto la scocca portante. E infatti per far fuoristrada duro non è che erano molto adatti, dai. Uno dipende da cosa deve fare, se deve far fuoristrada ci vuole sempre il telaio, così non sfasci niente, se no si tronca in due la scocca. Ok, cosa volevo dire? Io adesso vado a pappare, dai, vi saluto tutti, ciao Daniele, è stato un piacere riascoltarti dopo tanto, ciao Riccardino, ciao Gavino e tutti gli eventuali amici. Ah scusa, c'è anche Giulio, mi dimentico, e anche Giulio, dai, facciamo riprendere a Giulio, io vado a mangiare qualcosa, poi eventualmente stasera se coincide ci risentiamo a tutti. Buon tutto e cuoriti da parte mia, aspetto il finalino, vai Giulio. Ok, ciao, vabbè, buon pranzo, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo stasera eventualmente, dai. E anch'io chiudo, dai, ormai è già l'una meno 5 circa, per cui è già ora di prepararsi per andare a tavola. Ciao Daniele, fatti sentire però, non fatti desiderare come hai fatto questa volta, no, fatti sentire. E ci fa piacere, guarda, parlare con te. Ok, ciao Daniele di nuovo e ciao Riccardo, alle prossime, dai, stasera ci sentiamo Riccardo. Dunque io vado per il pranzo, sicuramente è pronto o quasi, ci sentiamo alle prossime. Vai Daniele per salutare a Roberto. Ehi, a Robè, dai, ci sentiamo più tardi, dai, tempo permettendo. Buon tutto e buon proseguimento, dai, che adesso ne approfitto anch'io e vi saluto a tutti, dai. Alle prossime o a dopo se coincide, dai. Ciao ciao. Riprendi Ricca. Ok, ciao Daniele, ciao Giulio, Roberto e a tutti gli altri che stanno ascoltando che sono in proposta. Faccio anche io correttiva, faccio quello che ti dico e ciao. Ok, ciao di nuovo a tutti, alle prossime, a stasera, ciao. Ciao ciao.